E ben ritrovati su Pink Moon, quest'oggi come sempre dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria e per l'occasione, per questa mini puntata, avremo il dottor Demetrio Spagna. Buonasera. Che se si mette un poco più vicino al microfono ecco. esce meglio. E niente, il fondatore, quindi l'artefice di questo museo, dal quale appunto Pink Moon, che è una trasmissione di approfondimento musicale, ha scelto di contestualizzare le sue puntate. E cercheremo di dare un'idea di quello che è il museo, sempre cercando appunto di partire dall'inizio e quindi da che cosa ha fatto sì che questo museo appunto si trasformasse da una collezione privata principalmente a un qualcosa di molto diverso, e appunto lascerò molto spazio proprio al dottore Spagna, proprio perché chi meglio di lui può spiegarci le dinamiche di questo museo dello strumento musicale. Appunto, come dicevi bene tu, Michelangelo, credo che il primo passaggio importante nella nostra mente è avvenuto questo passaggio importante nel trasformare una iniziativa privata in una cosa pubblica. Cioè, noi abbiamo preso la collezione che caratterizza il Museo dello Strumento Musicale e l'abbiamo tirata fuori dai luoghi privati, dalla casa, da casa mia dove essa era custodita, per esporla, conservarla, valorizzarla, mantenerla in un luogo pubblico visitabile e accessibile a tutti, appunto consentendo di avere questo passaggio, che è un passaggio esclusivamente mentale, no? Diciamo ideologico, da una cosa che riguardava un singolo a una qualche cosa che invece riguarda tutti. È evidente che nel fare questa cosa siamo stati ricambiati 100 volte 100, come direbbe il poeta, perché nel momento in cui le persone hanno avuto possibilità di guardare, di suonare, di, come dire, di toccare gli strumenti musicali collezionati al Museo dello Strumento Musicale a Reggio Calabria, ci hanno gratificato quantomeno di molti sorrisi, che è la cosa più importante, e anche di una considerazione che è cresciuta esponenzialmente verso questa idea di un luogo per tutti, con la musica e attraverso la musica, che è il prodotto finale, la voce, cioè degli strumenti musicali esposti al museo. La prima, anzi la scintilla, è stata un regalo, quello da parte di sua moglie, di una specie di giambè, che ha dato il là poi a questa mania per la collezione di strumenti musicali. Eh sì, anche questo è diventato ormai un episodio che si racconta, da leggenda, cioè, perché io l'ho detto talvolta, l'ho riferito, che il primo strumento, uno dei primi, è stato questo dono che mia moglie mi fece al tempo dell'università, di un piccolo djembé che diventò quello che diventò il numero uno, no? Quello che per Paperon de Paperoni è appunto la moneta numero uno, no? Il primo strumento collezionato, cui poi hanno fatto seguito tutti gli strumenti. Ora sono numerosi, non so bene se 600, 700, no? Strumenti però che appartengono alle cinque famiglie musicali, che già a suo tempo Hornbostel e Sax avevano catalogato, e che ora fanno, diciamo, bella mostra di sé qua all'interno del museo stesso. C'è stata appunto sì, una catalogazione degli strumenti in base proprio alle loro caratteristiche, quindi anche il criterio espositivo è, di volta in volta è andato diciamo, arricchendosi di nuovi spazi. Eh sì, perché fuori dubbio che siete voi giovani quelli che poi siete il sale delle iniziative e con la vostra opera condite di significati quello che noi vecchiarelli, tra parentesi, tra virgolette, cioè ci sforziamo di fare. Infatti la catalogazione degli strumenti musicali del Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria è una operazione compiuta, portata a termine da Alberto Caristo. Alberto Caristo è un giovane laureando in filosofia all'Università di Bologna che ha voluto fare a Reggio Calabria il tirocinio pratico di 200 ore, di 2 mesi. E ha impiegato questo tempo per fotografare gli strumenti, per fare appunto questo studio e per metterli sul sito. Infatti, a breve sul sito del museo ci sarà possibile conoscere la intera collezione del museo. Ecco, ricordiamo il sito del museo. Il sito è www.mostrum.it. E la mail è info@mostrumo.it, dove Mostrumo è l'acronimo di Museo Strumento Musicale. Naturalmente la collezione e lo studio che Alberto e gli altri ragazzi del museo stanno facendo attualmente non è una cosa che nasce così senza presupposti. Il presupposto, uno dei presupposti importanti, come appunto dicevamo in chiacchierata, diciamo informale, è stato quello che ha consentito la esposizione ottimale dei cordofoni che mio figlio Alfredo ha voluto recentemente praticare, attuare all'interno del museo, e da qui poi, come si dice, da cosa nasce cosa, si è avvertita la necessità appunto di creare questo catalogo sia cartaceo che multimediale. E a questa iniziativa di Alfredo, che è un giovane come te, Michelangelo, e come tanti altri giovani del museo, un altro giovane ha aggiunto appunto un'altra operazione che fa crescere il valore, della collezione del museo stesso. Allora, dopo questa breve introduzione, ci risentiamo dopo per capire come questo museo possa essere, diciamo, anche altro, oltre magari all'esposizione, semplice di strumenti musicali, ma anche quindi, un posto dove si fa anche ricerca, si studiano e si valorizzano, questi strumenti. Quindi ci risentiamo dopo. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi. Così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz. Non si capisce il motivo. Stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà, tu da tu da. Duemila enigmi nel jazz. Non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche sotto la luna del jazz. Siamo ritornati al Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria, sempre con il dottor Demetrio Spagna, e abbiamo dato una mini introduzione su quello che è appunto il museo, che cosa è diventato dopo appunto essere stata una collezione principalmente privata. Mano a mano si sono accumulati appunto questi strumenti, e quando credo che in casa non ci fosse più spazio si è deciso magari di esporli ad un pubblico un po' più ampio. E il fatto è che però ovviamente, come dicevamo prima, non è solamente una mera esposizione di strumenti musicali, ma si cerca anche di valorizzarli e quindi farne anche delle ricerche correlate. Soprattutto io citerei la collezione di strumenti della tradizione calabrese. Infatti appunto, Michelangelo, questo guarda, posso raccontare degli aneddoti e anche delle idee che sono intervenute, diciamo, in corso d'opera. Nel senso che quando io ho pensato di mettere su un museo di strumenti musicali, ho naturalmente girato un po' in Italia e all'estero per farmi un'idea compiuta di che cosa fosse un museo dello strumento musicale. E ho visto istituzioni importantissime che espongono, direi tutte alla stessa maniera, meravigliosi strumenti musicali d'epoca, importantissimi, costosissimi, eccetera eccetera eccetera. Allora, sarà forse perché noi non avevamo i soldi per poter, ecco, fare dei progetti architettonicamente importanti, per esempio comprare le teche espositive, le vetrine, gli espositori, quei bentalli, metterli con la giusta luce, eccetera eccetera. Abbiamo pensato di lasciare gli strumenti, diciamo così, a vista, nel senso che sono qui, sono toccabili e sono suonabili. Cioè il visitatore, che sia un minimo attento e rispettoso dei luoghi, può senza ombra di dubbio suonare i nostri strumenti musicali. A noi fa molto piacere, e pensiamo che appunto che questo sia una cosa che un poco connota questa nostra piccola creatura museale. È anche vero che questo fatto consente appunto di vivere la struttura museo non come appunto la parola, il termine museo, il sostantivo museo fa automaticamente comprendere a tutti, cioè qualcosa di statico, ma noi appunto abbiamo voluto creare una cosa cosiddetta viva, no? Una struttura nella quale gli strumenti siano parte di un vivere i luoghi e le strutture, nelle quali naturalmente non c'è soltanto l'esposizione ma degli strumenti musicali, ma c'è anche tanto altro. Che cosa in fondo altro? In fondo c'è, come dire, aleggia all'interno del nostro piccolo museo uno spirito dei luoghi, no? Un senso dei luoghi, appunto, come direbbe sempre il poeta, in cui il visitatore si sente parte e coinvolto. Saranno le vibrazioni degli strumenti esposti all'aria, magari un po' impolverati, ma appunto visivamente anche come qualche cosa non dimesso sotto vetrina, quindi la vetrina crea sempre un diaframma, un ostacolo tra il visitatore e l'oggetto dell'esposizione, sia esso strumento musicale, sia esso reperto archeologico o qualunque altra cosa. E quindi questa possibilità di contatto diretto consente di avere una fruibilità più, ecco, diciamo, più spirituale, come posso dire? Uso questo termine troppo grosso forse, ma che io spero renda un po' il senso di quello che voglio dire. Naturalmente questo passaggio mentale, appunto, legato al fatto che probabilmente non abbiamo i soldi per comprare le vetrine, però ci consente di avere anche altre disponibilità verso il visitatore, tanto che noi abbiamo ideato insieme ad altri amici alcuni progetti, no, che ci hanno consentito appunto di utilizzare gli strumenti musicali nelle nostre performance, in cui la musica era il pretesto per socializzare. Uno tra tutti il progetto Griot. Il progetto Griot è un progetto che già da oltre 10 anni fa noi abbiamo lanciato a Reggio Calabria e che ha visto la presenza del grande musicista Baba Sissoko, che attraverso le percussioni, ma non solo, creava degli ensemble nei quali noi tutti ci divertivamo e socializzavamo attraverso la musica e con la musica, tanto che poi questa musica del Mali, della regione africana del Mali, l'abbiamo battezzata come una musica che non stanca, perché facevamo delle vere e proprie tirate di 3, 4, 5, 6 ore, sì, suonando strumenti a percussione con la guida di Baba Sissoko, e alla fine stremati ma felici per aver partecipato a questo progetto in cui l'anima era tutto, riponevamo gli strumenti che avevamo usato negli spazi espositivi, contenti appunto di avere utilizzato, di avere usato, ecco, gli strumenti appunto per regalarci degli attimi di gioia come solo la musica in fondo sa fare. Questo però è un progetto, dicevo Michelangelo, è un progetto che in questa fase è in stand-by perché abbiamo, come dire, pensato di fermarci un attimo, essendo ormai arrivata oltre la 10ª edizione. In questa fase invece attualmente abbiamo degli altri progetti. Uno è il progetto Cordax. Il progetto Cordax è l'uso degli strumenti musicali della tradizione calabrese per fare delle feste a ballo. Feste a ballo a Reggio e nell'interland della città sono delle feste in cui la ruota è il luogo in cui i danzatori, i ballerini, ma appunto diciamo, chiamiamoli danzatori più che ballerini, no? In cui si danza all'interno di un cerchio, lui e lei o lui e lui a turno. Alla musica, al suono degli strumenti musicali della tradizione calabrese, che è ricchissima e che comprende le zampogne, l'organetto, la pipita, il tamburello, zuco, il fischiotto di castagno, la lira calabrese, il triangolo, il tamburello, la chitarra battente, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo eccetera. Che alcuni di questi strumenti, soprattutto della tradizione folcloristica calabrese, non sono strumenti qualunque, ecco, sono stati fatti da maestri degni. Ricordavamo il maestro Romeo, mi sembra. Sì, il maestro, come tu lo chiami, Leone Romeo, Michelangelo Romeo, è Leone Romeo. Leone Romeo è un giovanotto nato a Rocuti nel 1913. Rocuti è un paesino dell'area grecanica della provincia di Reggio Calabria, e appunto del tutto recentemente Leone Romeo ci ha fatto un bellissimo regalo, nel senso che ha visitato il Museo dello Strumento Musicale appunto recentemente, anche se purtroppo io non ero presente, ma ha impartito delle vere e proprie conversazioni, lezioni ai giovani presenti, da par suo, essendo lui una vera e propria autorità, non soltanto locale, ma insomma oltre i nostri luoghi, nel campo della costruzione di strumenti musicali tradizionali calabresi, soprattutto zampogna, soprattutto pipite, adesso non suona più, ma che ha suonato in modo eccelso per lunga parte della sua vita, che noi gli auguriamo sia ancora molto molto lunga e che possa continuare a donarci questi attimi meravigliosi con la sua profondissima conoscenza e cultura. A proposito appunto di conversazioni come quella che ha fatto recentemente qui al Museo Leone Romeo, diciamo in privato, ne stiamo mettendo in campo altre conversazioni, diciamo ufficiali, no? Ci siamo inventati quest'altro progetto che si chiama appunto Conversazioni al Museo, in cui la musica ha una prevalenza, è l'oggetto delle conversazioni stesse. Si è iniziato 5 conversazioni fa, tenute mercoledì alle 19.30 con il professore maestro Giampiero Locatelli, che ci ha illuminato sulla polifonia e poi sull'autore, sul compositore Gheorghi Ligeti. Poi si è passati alle conversazioni di Eugenio Celebre, che si è occupato della musica inglese non jazz negli anni 65-75, e ancora sono in corso queste conversazioni appunto il mercoledì sera. C'è stato l'intervallo, tra l'altro potrete trovarle su Transizione di Fase, quando andrà in onda questa puntata saranno già disponibili sul sito tutti gli incontri appunto di inglese ma non jazz, appunto. E poi continuerei ricordando la conversazione tenuta dal professore Paolo Sorge, che è il docente coordinatore del triennio, del coordinatore del corso di jazz al conservatorio della nostra città, che ha relazionato su una importante materia che aveva per titolo musica e numeri, spiegando appunto quali possono essere delle relazioni tra appunto la matematica, i numeri e la musica stessa. Continueremo, io spero, con altri amici, soci del museo, che donano queste loro esperienze alla nostra diciamo struttura, in modo che si possa continuare a ragionare e chiacchierare su questi argomenti, per far lievitare, anche per quello pochissimo che noi possiamo, appunto lievitare il livello delle conoscenze. Ecco, non userei mai la parola cultura perché è una parola troppo grossa, ma comunque conoscenza, attraverso appunto questa trasmissione da autorità nel loro campo che conoscono e che trasmettono ai numerosi giovani che poi vengono qui al museo ad ascoltare le loro conversazioni. Ecco, è possibile ovviamente visitare il museo, questa è una cosa abbastanza importante. Sì, il museo sì, è aperto tutti i giorni dell'anno, è aperto al mattino tra le 10 e mezzogiorno. Ci sono dei giovani, citerei quelli che sono attualmente presenti, senza per questo dimenticare i numerosi giovani che in 16 anni di attività, in 16 anni di presenza qui all'ex stazione Lido delle Cambogi, Reggio Calabria, hanno prestato la loro opera come soci guida. Citerei adesso Davide, Fabio e Alessandra, che appunto si stanno occupando di questo importantissimo settore, diciamo, delle visite guidate. Loro ormai sono diventati dei veri e propri esperti sugli strumenti musicali, non solo italiani ma di tutto il mondo, anche perché hanno, diciamo, consultato i testi e i volumi che sono qui presenti e addirittura hanno anche acquisito sul campo il titolo di guida museale in riferimento agli strumenti musicali, che quindi apre, come si vede, degli spazi impensabili forse attualmente, ma domani probabilmente anche utilizzabili sul settore, noi speriamo, sul settore appunto dell'attività lavorativa. Ecco, da quanti anni esiste il museo in questa veste? Ovviamente non dal primo strumento collezionato, proprio da questi locali. In questa sede noi siamo dal 1996, cioè fatti conti sono 96 al 2011, sono 17 anni, 16 anni, 17 anni. Ecco, sono tanti anni ormai. Sono tanti anni e la struttura è anche, come dire, migliorata dal punto di vista della concettualità museale. Tanti giovani, ricordo Giussi, ricordo Giuseppina, ricordo Caterina, si sono dedicati anche, diciamo, non soltanto al miglioramento della struttura dal punto di vista murario, abbellimento delle pareti, hanno curato l'esposizione, hanno curato tante cose, ma hanno fatto in modo appunto che lievitasse l'interesse della collettività della città verso questa struttura, tant'è che noi abbiamo anche avuto importanti donazioni. Ecco, questo è un altro concetto che vorrei sottolineare: non solo sono stati donati al museo dello strumento musicale degli strumenti musicali appunto importanti come un Petrov Gran Coda che è arrivato qui per merito del professore Nicola Sgro, direttore d'orchestra e compositore della nostra città, o per esempio di un importante salterio cinese che il dottor Gianni Muccio, che purtroppo non è più con noi, almeno 15 anni fa si è caricato letteralmente di peso sulle proprie spalle portandolo dalla Cina a Reggio Calabria durante un viaggio organizzato con altri amici di tutta Italia, e si è portato questo grande pacco, figuratevi, un pacco lungo oltre 1,5 metri con un salterio a tavola importante dentro, e dicendo a tutti gli amici che facevano parte del suo gruppo di viaggiatori, dice: questo strumento musicale l'ho comprato per portarlo e regalarlo al museo dello strumento musicale della nostra città. E lui sentiva questo piacere, questo, diciamo, orgoglio di raccontare agli amici, e poi lui mi disse, appunto, c'erano tra di noi dei romani, dei siciliani, dei campani, eccetera, gente di tutta Italia, ma e che mi domandavano: com'è che ti porti dietro questo grande pacco? Dice: a me non pesa, diceva lui, perché lo porto al museo dello strumento musicale della nostra città. E figuratevi la mia grande gioia quando mi telefonò e mi disse: sai, ti ho portato un regalino, e mi fece vedere questo meraviglioso strumento. Ma questo episodio diede a noi, che appunto l'episodio risale a oltre 15 anni fa, una carica straordinaria, perché ci aveva fatto capire che l'idea nostra di creare un museo aperto a tutti era un'idea che poteva essere percorsa in modo ottimale, che quindi era un'idea giusta. E quella carica noi l'abbiamo conservata e ce la ritroviamo con lo stesso entusiasmo anche oggi. Naturalmente le donazioni non riguardano soltanto gli strumenti musicali, ma è del tutto recente appunto la donazione che la signora Sgroi, moglie del defunto e compianto dottor Aldo Sgroi, vice direttore di un giornale importante che si pubblica dalle nostre parti, ci ha voluto fare su una collezione completa di storia della musica con 12 volumi e 12 fascicoli di dischi, pensate un po', dischi vinile a 45 giri. Cioè, stiamo parlando di una raccolta degli anni 70-75, per cui chi volesse consultare la nostra biblioteca, che è un altro punto sul quale noi lavoriamo molto, potrà farlo. È anche vero che noi abbiamo organizzato tanti viaggi, come diceva Michelangelo, anche viaggi mirati, appunto, viaggi di famiglia anche in base agli strumenti importanti che magari al museo non c'erano, come andare in Inghilterra a comprare una bagpipe o andare in Turchia a comprare un salterio, un altro strumento musicale, una zurna turca. E c'è da dire anche che durante i nostri viaggi cerchiamo di portare a Reggio Calabria dei volumi relativi alla musica e all'organologia o delle guide sugli altri strumenti, sugli altri musei, degli strumenti musicali distribuiti un po' per il mondo in lingua originale. Perché questo? Perché a Reggio Calabria c'è una importante università per stranieri e allora a noi piacerà che i ragazzi stranieri che studiano a Reggio Calabria per imparare l'italiano, venendo a visitare il museo, possono trovare dei volumi anche nella loro lingua madre, oltre che in italiano o in inglese, no? Perché questo ci sembra un segno di rispetto anche nei confronti dei numerosi giovani che appunto sono presenti a Reggio per studiare e che consentono forse, no, vero Michelangelo, di ipotizzare quella città turistica che sperando passi attraverso un miglioramento intanto per i cittadini, no? Un miglioramento della città. La città può diventare turistica solo dopo che i cittadini residenti si troveranno bene a viverci. Certo, altrimenti, non sono certo le caratteristiche morfologiche quelle che... Una città turistica non può definirsi tale se prima già i propri cittadini non ci vivono bene, no? Il passaggio del turistico, tra virgolette, è il secondo momento. Il primo è assicurare servizi, spazi vivibili, un ambiente sano e una socialità diffusa in modo, come dire, ottimale, senza turbe e turbazioni, come possiamo dire, che quindi rendono piacevole vivere a Reggio Calabria, che poi una volta che i nostri cittadini acquisiranno questo indispensabile modo di vivere sereno, potrà certamente diventare una città turistica per le meravigliose meravigliosa location, no? Naturale, in questo spazio stupendo che è lo Stretto di Messina, per cui appunto Reggio Calabria è senz'altro una città a vocazione turistica proprio nello stretto. Importante il fatto che molte scolaresche vengono qui a visitare il museo, quindi proprio partendo dai più piccoli credo che sia un ottimo modo per fare conoscere determinati ambiti artistici, quindi quello musicale prima di tutti. Con le visite appunto della mattina, spesso scolaresche anche da varie province vengono qui per appunto visitare il museo. Sì, questo è uno degli aspetti che più noi vogliamo curare, sempre meglio, e che ci gratifica e gratifica anche i giovani guida del Museo dello Strumento Musicale, perché il recupero di risorse economiche garantito dai visitatori delle scolaresche ci ha consentito di passare da una completa e totale prelievo dalle nostre tasche, come direbbe sempre il poeta, alla possibilità che il bilancio attuale del museo sia coperto, no, per circa il 40% della totalità di ciò che noi recuperiamo. E una struttura museale che voglia garantirsi il futuro, la sua vita, deve pensare anche alla questione del bilancio. Adesso ormai, dico, dopo aver tirato questa carretta avanti da solo per tanti anni, da qualche anno appunto piano piano il bilancio del museo viene garantito e assicurato e dalle visite delle scolaresche e dai numerosi soci. Le scolaresche stanno arrivando ormai da tutte le province, sì, dalla Calabria, dalla Sicilia, e speriamo, se Reggio Calabria diventerà una città turistica anche come turismo scolastico, con l'apertura prossima di cui tanto si parla del Museo Nazionale della Magna Grecia, si possa finalmente veramente trovare un grosso attrattore, no? Che porti a Reggio tanti turisti che poi di conseguenza potranno trovare anche qui un altro spazio espositivo interessante per il loro soggiorno a Reggio Calabria. Le scolaresche fatte da giovani sono quelle che ci ritrasmettono l'entusiasmo, Io vedo i nostri giovani, Davide, Fabio e Alessandra, che mi raccontano il piacere con cui i ragazzi delle scuole visitano questo museo e le mail che mandano alla nostra posta elettronica per complimentarsi, per anche criticare talvolta, no? Per esempio la polvere, che è un problema serio, però per complimentarsi soprattutto per l'idea e per la maniera garbata che i ragazzi hanno di spiegare e per l'entusiasmo che i nostri giovani trasmettono agli studenti e che gli studenti rimandano appunto indietro in modo copioso, proprio legati al fatto che hanno piacere a visitare questo luogo e a stare all'interno dei nostri spazi. C'è anche uno spazio di recente che appunto costruzione tra virgolette, è quello, lo spazio sonoro attivo, proprio come abbiamo detto non è solamente un museo dove ci sono degli strumenti musicali esposti, ma si rende anche di renderlo un po' più vissuto tra virgolette. E questo spazio sonoro attivo è lo spazio privilegiato per i musicisti della nostra città, cioè noi appunto stiamo trasmettendo da questo spazio sonoro attivo del museo, è un locale abbastanza anche come dire insonorizzato, in cui ci sono le attrezzature per poter suonare e i propri strumenti e gli strumenti che il museo mette a disposizione, in modo che chiunque abbia un progetto con la musica e attraverso la musica e per la musica possa trovare qui quella ospitalità necessaria a costi veramente minimali, in modo da potersi, come dire, ritagliare delle ore in cui sta qui a divertirsi con la musica e attraverso la musica, perché i musicisti della città sono il nostro pubblico privilegiato e particolarmente importante, sono poi quelli che ci consigliano, che ci danno le idee, sono coloro i quali poi si associano al museo con una piccola quota associativa e sono quelli che appunto sostengono, sorreggono, migliorano, fanno vivere la struttura stessa utilizzando lo spazio sonoro attivo di cui appunto il museo mette a disposizione di chi volesse usufruirne, come dire, seguendo un po' quelle che sono le regole appunto del regolamento interno che si sono state fissate dopo ampia discussione all'interno, in modo che tutti possano giovarsi di questo spazio che è gestito da uno dei soci, che è Simone, e che quindi, come dire, no, mette anche a disposizione la sua competenza di fonico ormai di lunga durata insieme a Teresa, insieme a tutto il suo gruppo di lavoro. Va bene, allora facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo per i saluti finali. Wow, wow, wow, wow, wow. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono, come di, come di, come di, come di, come di orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, ah, come di, come di, danger. La comédie d'un jour, à d'un jour ta vie, la comédie, la comédie, la comédie. Wah wah wah wah wah, wah wah wah wah wah wah wah, wah wah wah wah wah wah, wah wah wah wah wah wah, wah wah wah wah wah wah, wah wah wah wah wah wah wah. chihuahua. Ma cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, come di, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, come di, come di, parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Come di, come di, come di, come di, come di orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Ah, come di, come di, come di. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie. Ritorniamo qui dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria, sempre su www.transizionedifase.org. È stato un piacere avere il dottor Spagna qui con me. E ovviamente Pink Moon continua a trasmettere da questo museo. E quest'anno, come ho già detto, non mi sembrava il luogo, ecco, più appropriato da dove poter condurre una trasmissione musicale, e speriamo che appunto che il dottore sia riuscito a rendere l'idea di quello che è stato, di quello che è, di quello che potrà essere questo luogo. Io vi ricordo che su Transizione di Fase potete ascoltare appunto gli incontri che il dottor Celebre ha tenuto qui al museo, gli incontri di inglese ma non jazz, e oltre al fatto di averlo già avuto ospite per una puntata proprio dedicata ad un incontro di inglese ma non jazz. E non so se voleva aggiungere qualcosa il dottore. Volentieri, grazie Michelangelo. Io appunto adesso è arrivato il momento dei ringraziamenti a te personalmente per la garbo, la cortesia e la gentilezza nell'averci invitato a fare questa chiacchierata. La vostra web radio Transizione di Fase, che ringrazio per appunto l'opportunità che ci dà di parlare delle cose nostre e di invitare tutti a visitare il Museo dello Strumento Musicale, che si visita con un minimo di biglietto di ingresso. E che è aperto, dicevamo, tutti, ecco, i giorni. Non abbiamo detto quando, ecco, è aperto tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno, festivi compresi, non tranne che so in assenze forzose legate a fatti improvvisi per i ragazzi soci che aprono in modo volontaristico il museo stesso, ma ripeto che è aperto tutte le mattine con un minimo di biglietto di ingresso. aspetto numerosi visitatori, perché questo è veramente ciò che ci continua a dare forza, perché è vero quello che dice Michelangelo, che chi visita questo luogo vede un modo nuovo forse, no, di concepire un'attività museale, ma è anche vero che poi sono i visitatori il valore aggiunto, quelli che ci danno tantissimi suggerimenti, perché sentendosi compartecipi e partecipi di questa struttura museale sono poi quelli che ci restituiscono idee, proponimenti migliorativi e quant'altro può servire appunto perché questa nostra piccola struttura museale possa continuare a vivere, diciamo, no, a Reggio Calabria, perché Michelangelo dice il Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria. Io invece, con una piccolissima nota polemica, no, verso, diciamo, le istituzioni che un po' ci aiutano veramente, direi quasi nulla, dico che il Museo dello Strumento Musicale è a Reggio Calabria e non di Reggio Calabria, e chi ha orecchie per intendere intenda. Quindi, nel ringraziarvi ancora, vi saluto, spero di vederci presto, e un in bocca al lupo per la vostra attività preziosa e di pregio. Grazie. Crepi il lupo e alla prossima. Scusa bellezza mia, si sa che poi si fa. Per simpatia di grandi incontri, simpatia, ma che lusinga tu mi dai, scandalo acrobazia, appassionato o no, galanteria. Sono più vecchie novità, sì, ma bellezza mia, il grande lampo è qui, sì, qui. Meglio se sei tu, meglio se sei tu, meglio se sei tu. Dove mi credi e dove no, fiuti l'ipocrisia. Hai mani stanche o no? Ah sì, bellezza mia, travestita da esultanza, divina eleuforia, di questo vento intorno a noi, simpatia, simpatia. Leden piano spiana il sonno, scandalo non sei mia, braccia aperte vieni qui, sì, qui, meglio se sei qui.